un po' oscurato da Sanremo, con i suoi carichi di canzoni, varietà e polemiche, il mondo curiosamente procede. Sono oltre 1000 le persone guarite dal coronavirus, 565 le vittime, 28.000 i contagi, con i cinesi persuasi di aver trovato una cura e l'OMS che smentisce. Sono 52 i senatori che hanno votato contro l'impeachment a Trump, che pare essere uscito da questa intensa tre giorni piuttosto rafforzato. Per la politica i fronti sono vari. La battaglia sulla prescrizione resta al centro della scena, con il ministro Bonafede che, stando ad alcuni giornali, avrebbe addirittura minacciato le dimissioni. Comunque si tratta. Due percentuali che fanno discutere. 10% è l'aumento dei rimborsi per l'accoglienza dei migranti disposto dal ministro Lamorgese per evitare che i bandi vadano deserti. E ci sono già le proteste della Lega. 5% è lo sconto massimo applicabile alla vendita di libri, stando alla legge approvata definitivamente ieri e che mirerebbe a favorire la lettura. Sì, certo, poi c'è Sanremo. Nel minestrone entrano i maxi ascolti della prima serata, la reunion dei ricchi e poveri, le canzoni in gara, Novak Djokovic sul palco, Junior Kelly e la canzone contro Salvini e Renzi. Peraltro, ultima in classifica generale. Questo è il 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 mattino" di Simone Spezia. Strano questo fatto, che vada avanti il mondo nonostante Sanremo. Comunque, vi aspettiamo 349-238-66 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, come sempre. Fatemi sentire la vostra voce. O se volete anche su Sanremo, E anche sul fatto di vedere o non vedere Sanremo, perché poi il mondo si divide in due, come sappiamo. Ed è nettamente in due, perché quel 52% di ascolti lo testimonia. C'è un 48% dei telespettatori che Sanremo non lo fila per niente. E spesso in realtà la maggioranza è la minoranza rumorosa, quella. Quelli che si fanno sentire dicono "non ne parlate". Vi aspetto anche su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, siamo in diretta video, ci potete seguire anche là, su Instagram, su Twitter. Con Carmelo Lauricelli in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Vorrei iniziare. Prima di passare ai grandi temi di giornata, a questa storia della legge approvata definitivamente ieri. Perché, sarò scemo io, però a me sembra veramente controintuitivo. Si dà il via libera ad una legge che serve a favorire la lettura e che prevede che non si possa applicare sui libri uno sconto superiore al 5%. Scusate, ma che vuol dire? Teoricamente dovresti farli costare meno i libri per far leggere di più le persone, o no? Il relatore Verducci del Partito Democratico, approvato all'unanimità, all'unanimità, tutto il Parlamento ha dato il via libera. Sentiamo Verducci. Non è vero che con questa legge i libri costeranno di più. Non è vero che scompariranno gli sconti. Saranno regolamentati per permettere a tutti di stare sul mercato. Insomma, sì, è chiaro che vuoi contrastare Amazon, vuoi contrastare la distribuzione online, vuoi favorire le piccole librerie, però secondo me qualche altro modo si può trovare, scusate. E infatti l'associazione editori è piuttosto contraria. Va bene, si fa per dire. Come si diceva, l'altra percentuale che crea polemiche è quella stabilita dalla ministra Lamorgese, la quale ha visto che i bandi per l'accoglienza ai migranti andavano deserti a causa dell'abbassamento delle tariffe imposto da Salvini nel precedente esecutivo e ha alzato del 10%. E ovviamente l'ex ministro ha già protestato. Buongiorno a Silvia Brasca, giornalista della 7. Ciao Silvia, bentornata. Ciao, buongiorno a tutti. E buongiorno a Giulia Zonca, giornalista della Stampa. Ciao Giulia, eccoci. Ciao. Buongiorno. Ciao, ci siamo. Allora, poi tra gli argomenti centrali di giornata, beh, sicuramente il tema della prescrizione, argomenti centrali per la politica, è come ovvio che sia. Non posso perdere tempo, dice il ministro Bonafede. Io non posso tutti i giorni impiegare il mio tempo per rispondere a chi è nella maggioranza e si comporta come se fosse l'opposizione. A volte ho il dubbio che i testi glieli scriva Salvini o Berlusconi. Quindi il livello della polemica si alza, tanto che un altro esponente 5 Stelle, Buffagni, parlando di Italia Viva, la mette così. Guardi, non rispondo per Italia Viva. Chieda loro, io non mi occupo di calcio minore. Capito? Eh? Gentilezze tra alleati. Gentilezze tra alleati. Rosato di Italia Viva. Ma parliamo come opposizione alla sua riforma, assolutamente. Il problema è che lui quella riforma l'ha approvata con Salvini e quindi c'è un po' di contraddizione nel suo pensiero logico. Noi siamo all'opposizione della riforma Bonafede-Salvini. Senza essere un esperto, no, di economia, me ne occupo però da qualche anno tutto sommato. Io, e vorrei coinvolgervi, Silvia, Giulia, la ratio, tornerei a quella storia dei libri, scusate, perché io la ratio di quella cosa veramente non riesco a capire. Quando l'ho vista ieri, approvata all'unanimità, già avevo perplessità sulla legge precedente firmata dall'uomo che adesso è alla guida dell'associazione editori, che è Riccardo Franco Levi, con sconti massimi del 15%. Adesso arriviamo a sconti massimi del 5% e si dice voglio favorire la lettura. Silvia, che dici? Come la vedi? Beh, che la situazione penso sia abbastanza complicata e soprattutto sia stata dettata dalla paura appunto dell'online, di Amazon e di quello, insomma, delle strategie di vendita, no? Per cui Amazon, rimanendo nel tetto, in realtà poi dava il buono sconto. È un problema il costo dei libri, ma è anche un problema trovarli. La grande catena, i due grandi blocchi, insomma, delle due grandi marchi delle catene e le librerie indipendenti. Io ne prendo di libri, non è facile spesso trovarli. Alla libreria indipendente ci vuole un po' di tempo, per cui non sempre lo trovi. Nelle grandi catene il libro c'è, ma non lo trovano nei tre piani, cioè sì. C'è un casino pazzesco. Poi dopo trovarlo, per cui a volte davvero si è anche costretti ad andare per una questione di semplicità, ecco, però certo, il 5% è poco. Amazon è, insomma, non voglio usare un termine forte, insomma, è abbastanza stavo per dire piratesco, ma non lo voglio dire. Sì, okay, insomma, no, è molto aggressiva, ecco, ho capito una strategia aggressiva che nessuno si può permettere. Questo è un po' una toppa. Sì. Il problema comunque della lettura è anche quando i libri sono belli, si vendono. Su quello non c'è il minimo dubbio. Giulia, mi sembra un po' l'idea di cercare di fermare, no, di svuotare il mare con il cucchiaino, questa storia del 5%. Cioè, insomma, sì, poi nella legge c'è molto altro, c'è una strategia per, no, per introdurre un po' più di lettura nelle scuole, tutte queste cose qua, per carità, è tutto meritorio. Forse la chiamano legge salva librai, non legge salva lettori, per cui cioè, poi alla fine il problema ovviamente esiste ed effettivamente è complicatissimo, cioè cercare di favorire le piccole librerie indipendenti rispetto alla grandissima e aggressivissima distribuzione. Detto ciò, è un po' sempre così, è come fermare il virus con la paletta e fermare la globalizzazione con delle con i dazi, leggi per esempio. No. sì, più o meno sì. È un po' così. Poi il mondo va avanti, ecco. Sì. Cioè, non... Ah, sì, no, sicuramente. Silvia, come la vedi questa storia della prescrizione? Secondo te, perché io continuo a pensare che il governo non salta su questa cosa qua. Devo dirti, però, e l'ho detto anche nei giorni scorsi, devo dirti, però, che a sentire tutte queste dichiarazioni, insomma, forse un minimo di incremento di tensione lo leggo, Sì, però vedo anche che c'è la trattativa, sta iniziando una sorta di trattativa, no? Stavo leggendo appunto che il PD parla di una significativa apertura di dialogo, scrive Repubblica. Su che cosa il dialogo penso che sia sul rinvio del blocco della prescrizione appunto dal primo grado all'appello. Anche qua non vedo tanto margine, non so onestamente come ce la faranno, ma ce la faranno. Tu dici che ne escono alla fine in qualche modo. Se guardiamo quello che leggiamo i quotidiani oggi su questa storia qua, sarà bello vederlo tra una settimana, perché davvero è una specie, c'è una super cazzola. grande Silvia. Sui giornali oggi c'è di tutto, tra l'altro, da Bonafede che tratta, secondo un giornale Bonafede tratta, secondo un altro giornale Bonafede invece è pronto alle dimissioni, insomma siamo un po' là che non si capisce esattamente che cosa succede. Quello che si capisce è che nel Movimento 5 Stelle ci sono due ali, quella governista, almeno due ali, almeno. Quella governista e quella un po' più che sta cercando una maggiore visibilità. E chiaramente l'ala del dimissionario, del dimissionato Luigi Di Maio, dell'autodimissionato Luigi Di Maio, il quale chiama la gente in piazza, chiama ad una manifestazione di piazza. Lui, che è ministro degli esteri, che è al governo e che ha guidato la delegazione del governo fino alla settimana scorsa, fino a 10 giorni fa, ebbene, chiama la piazza perché dice: qua ci vogliono ripristinare tutto. Chi vogliono, che la maggioranza sono loro? Comunque, vogliono rimettere i vitalizi, ce l'hanno con noi. Di Maio, sentiamolo, va. Quel popolo italiano deve scendere pacificamente in piazza e manifestare pacificamente contro questo osceno atto di restaurazione che inizia con il riprendersi i vitalizi, ma man mano vedrete vorranno cancellare tutte le leggi che abbiamo fatto. Scendere in piazza significa vederci sabato 15 febbraio a Roma. Ma questo vorranno, che mi incuriosisce, no? Giulia, vorranno chi? Chi che sei in maggioranza, no? Ma è suggestivo, come anche suggestivo che ormai i politici pensino che bisogna risolvere le cose con la gente in piazza. Il povero popolo italiano dovrebbe vivere in piazza, secondo loro, secondo gli uni e gli altri, perché non c'è altra, cioè loro cosa ci stanno a fare se bisogna sempre andare in piazza per cercare di o mettere un freno o spingere una cosa? Cioè, hanno francamente frainteso il ruolo della piazza, che a parte dovrebbe essere una soluzione un po' più estrema e non una quotidianità come invece ora sembra, e forse anche rendersi conto che invocare la piazza continuamente significa anche proprio elencare i propri profondi limiti. Sì. Allora, stiamo scatenando un po' di dibattito, ci scrive un'ascoltatrice: sono una libraia indipendente, magari il libro si deve aspettare qualche giorno, ma i servizi che diamo noi librai indipendenti, vedi anche le presentazioni con l'autore, il rapporto interpersonale che si trova in libreria, Amazon non li fornirà mai. Lei ha ragione solamente in parte, a me è capitato, è una storia personale ovviamente, quindi vale per quel che vale, prendetela come, a me è capitato più di una volta di entrare in librerie indipendenti che erano poco più che un cash and carry del libro. Allora, se deve essere un cash and carry del libro, dove entro, scelgo il libro che voglio, pago, me lo cerco io, scelgo il libro che voglio, pago e me lo porto, dipende dal negoziante, dipende dal libraio. E però, ripeto, a me questa storia dello sconto del 5% continua a non convincermi. Ce l'abbiamo già il traffico, Carmelo Lauricella, andiamo. Il polemicone su Oliviero Toscani, che a un giorno da pecora dice sul ponte Morandi, cosa dice? Sentiamolo, va. Noi come fabbrica, sì, sì, con le autostrade non abbiamo proprio niente da fare. No, voi no, ma Benetton sì. No, Benetton è un azionista di una società della quale la famiglia ha un 30%, ma magari anche lei si è investito, lei che è lì il giorno da pecora, si è investito in banca, magari anche lei è un azionista, magari non diciamo grande come Benetton, forse nel caso allora diverso, anche lei è responsabile della caduta, ma a chi interessa che caschi un ponte? Beh, insomma, le persone che sono morte, per esempio, gli interessa. No, sì, vabbè, comunque no. Sì, mi sembra parecchio. Comunque io non mi interessa questa storia qui. E vabbè, poi si è scusato con intervento di Salvini. Toscani, vergognati. Ma come fa uno a dire, con decine di morti vittime del crollo del ponte Morandi, testuale a un programma su una radio nazionale pubblica, ma chi volete che interessi del crollo di un ponte? Come ad assolvere qualcuno che evidentemente non ha fatto il suo lavoro, il suo dovere, e che ha sulla coscienza quelle decine di famiglie distrutte. Spero che il signor Toscani abbia un minimo di dignità per chiedere scusa. E poi si è scusato a tutti gli effetti, si è scusato su Repubblica, sulla stampa, lo trovate, insomma, però quelle parole restano, voce dal sen fuggita. Cosa abbiamo poi? Donald Trump. Ieri abbiamo raccontato ampiamente quella scena al termine del discorso sullo Stato dell'Unione di Nancy Pelosi dietro le sue spalle che strappa il discorso al termine del discorso di Donald Trump. Qualche ascoltatore ci ha detto, dato che abbiamo mosso qualche critica a quel gesto, ha detto però lui non le ha dato la mano quando è entrato per il discorso. Diciamo, non era istituzionalmente un bel gesto quello della Pelosi, almeno a mio personalissimo giudizio. Ieri, comunque, il punto è che Trump è stato assolto, come previsto in Senato, dall'accusa di impeachment. C'è stato, è stato assolto, cioè non ci sarà l'impeachment in sostanza. Voto contrario rispetto al suo partito di Mitt Romney tra i repubblicani, comunque 52-48, l'audio è questo. The presiding officer directs judgment to be entered in accordance with the judgment of the Senate as follows. The Senate, having tried Donald John Trump, President of the United States, upon two articles of impeachment exhibited against him by the House of Representatives, and two-thirds of the senators present not having found him guilty of the charges contained therein, it is therefore ordered and adjudged that the said Donald John Trump be, and he is hereby, acquitted of the charges in said articles. E quindi non si procederà. Silvia, mi pare che da questi tre giorni, tra l'Iowa con queste primarie che finiscono in modo strano con Buttigieg che vince di misura, e però con tutta questa confusione sullo spoglio dei voti per i caucus in Iowa da una parte, dall'altra il discorso sullo Stato dell'Unione, terzo elemento questa storia dell'impeachment, da questi tre giorni Trump esce rafforzato, con uno slancio quasi direi per la corsa verso le presidenziali. Sicuramente è stato un martedì nero per i democratici, proprio una mancanza di organizzazione, di leadership. Un dato, quello di Biden, che dice che va avanti, però Biden secondo me, e anche secondo tanti ovviamente osservatori, non è fortissimo. Sanders e la Warren un po' appunto anche loro azzoppati, e cioè il campo democratico deve guardare per forza a Buttigieg. Sì. A hanno allora, fatto anche la si pronuncia, lo dico agli ascoltatori, in specie a quelli che insomma che un po' l'inglese lo masticano, si pronuncia così. Dovete dire stivale, cima, cima, boot, edge, edge, ok? È così okay. che si pronuncia, così, okay. così lo sappiamo tutti e siamo a posto. Benissimo, insomma si è aggrappati un po' a lui, perché può partito da dietro, può andare, e secondo me c'è chi ha proprio puntato a questa strategia, no? A farlo crescere di volta in volta. Quello che non ha bisogno ormai, mi sembra, di nessuna strategia è Trump, va avanti con lui e l'economia americana, ma siamo solo a febbraio. Deve arrivare novembre per il voto. Giulia, come lo vedi? Hai visto un Trump rafforzato da questi ultimi giorni? Sì, no? Sì, devo dire, purtroppo, almeno per la mia personale opinione, non l'ho mai visto indebolito, ecco, nonostante okay. insomma, perché tanto è un po' così, cioè dal primo minuto della candidatura, della prima candidatura che gli arriva, ovviamente, giustamente, qualsiasi saetta, e lui si sembra francamente impermeabile, perché anche quello che effettivamente poi gli viene riconosciuto nell'indifferenza generale, certo, la novità non è tanto quanto è forte Trump e quanto è disorganizzato l'avversario in questo momento, sì. probabilmente Trump è sempre lui e va avanti con la stessa strategia e la stessa modalità che l'ha portato a fare il presidente degli Stati Uniti. Dall'altra parte si sono fatti vedere molto disorganizzati. Forse l'unico dato da questo punto di vista molto minimamente positivo è che alla fine è emerso il candidato che è l'opposto di Trump, proprio in tutto e per tutto, e forse è meglio così, forse sì. è meglio che lo contrasti il suo esatto contrario. Uno come lui. Allora, Sanremo, il diario della nostra Marta Cagnola, sentiamolo, va. 1:40, se chiunque ieri sera fosse andato a dormire a un'ora decente e si chiedesse quando è finita la seconda serata del Festival di Sanremo, ecco, all'1:40. Se ci aggiungiamo per i temerari l'altro festival, che è un dopo festival senza diretta TV ma in streaming e quasi senza cantanti perché devono pur dormire, la serata si è conclusa dopo le 3. Perché questo spettacolo infinito? 16 cantanti in gara tra big e giovani e una moltitudine di ospiti, tanto che per circa un'ora ci si è proprio dimenticati della gara. Per chi volesse fingere di aver resistito fino alla fine, sveliamo che in testa alla classifica provvisoria c'è Francesco Gabbani e ultimo Junior Kelly. La giuria, solo demoscopica per ora, ha bocciato tutti i rapper. Ma tutto può cambiare. Oggi è solo giovedì, davanti abbiamo altre 3 notti insonni. Di questo passo non invecchieremo mai in forma come i ricchi e poveri che ieri hanno riportato tutti indietro nel tempo. Persino Amadeus, che a un certo punto si è confuso e ha detto che Tosca ha vinto il Festival Bar. E va bene, il diario della nostra Marta Cagnola, che serve a tutti voi che vi siete svegliati presto e siete andati a letto tardi, quando siete in ufficio, al lavoro, in qualsiasi situazione e volete far vedere che Sanremo l'avete visto, no? Non volete fare gli snob che dicono io Sanremo non l'ho visto, beh, la nostra Marta Cagnola vi dà qualche dritta, come sempre, tutte le mattine. Junior Kelly, che è ultimo in classifica, però insomma generato un po' di polemiche per questo testo che se la prende con i due Matteo, Salvini e Renzi. Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese, ma è meglio il mojito, eppure il liberista di centro-sinistra che perde partite e riporta il partito. Si chiedono questo da dove è uscito, dal terzo millennio col terzo dito, parlare di eccesso. Ed eccolo qua. Giochiamo anche un po', va, adesso a me ha fatto ridere abbastanza questa scena. Amadeus chiama dalla prima fila l'abbonato più antico d'Italia, abbonato da non si sa quanti anni, il quale pare, quando gli fa una domanda il signore un po' anziano, sembra che stia per dire: raga, lo devo pagare, lo pago, ecco, la dico alla romana. E quindi entra Amadeus con una risata, sentiamo. E il signor Roberto Polizzi, 87 anni, da Casalecchio. Poluzzi, ben arrivato, sì, venga, ci faccia... Oh, complimenti, ecco qua, l'abbonato Rai in prima fila. l'abbonato Rai in prima fila dal 54. Beh, complimenti. Complimenti. Ci è pagato una volta, si è andato avanti a pagare, siamo arrivati a... Si è pagato una volta, si è andato avanti a pagare, che devo fare? Poi me l'avete messo in bolletta e quindi pago comunque. Giulia Zonca, prima di chiudere abbiamo 30 secondi, ti voglio coinvolgere su questo. Allora, oggi la Gazzetta dello Sport apre sulla rottura tra Messi e il Barcellona e ci lancia questa suggestione, l'ipotesi di Messi in Italia in Serie A. Come la vedi? Con Ronaldo, come... di nuovo. Come la vedi? Come la vedi? Un po' come ricchi e poveri potrebbe essere, vista l'età, la situazione, però no, sarebbe stratosferico. Non sono così sicura che Messi lasci il suo nido, ma sarebbe stratosferico. Beh, sarebbe stratosferico. Allora, Ronaldo alla Juve, Messi all'Inter e... Forti, forti, però insomma, stavo per dire siamo al reparto geriatrico, ma non è vero, insomma, sai, Ronaldo, allora si tengono meglio di noi, direi proprio di sì. Grazie Giulia Zonca della Stampa, Silvia Brasca della 7, grazie, alla prossima, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.